per forza di cose costrette a recitare sempre quella parte lì. Tu ti sei inventata varie vite. Beh, più che inventata, sono seguito un po' il flusso della mia vita, sono stata sempre un po', diciamo, attenta a quello che succedeva anche dentro di me, insomma. E anche i desideri, cioè a volte prendersi dei rischi sono delle sfide che ti portano anche a delle soddisfazioni, diciamo. Non mi sono, è forse vero, non mi sono appoggiata su magari dei ruoli anche di grande successo, continuando magari delle serie di un personaggio felice, che poi magari negli anni mi è venuta anche la nostalgia di aver abbandonato. Però rimpianti no. Però rimpianti no. Esatto, rimpianti no, no. Beh, no. Devo dire, se fossi sincera, rifarei un po' sempre un po' le... Sì. Gestisco meglio i sensi di colpa, perché distingo di più quello che dipende da me e quello che non dipende da me. Ecco, a proposito di rischi, poi tu te ne sei assunto anche uno andando un po' in controtendenza quando qualche anno fa hai deciso, e come hai raccontato anche in un'intervista che abbiamo fatto insieme qualche tempo fa, andando anche contro il parere dei tuoi agenti, hai deciso di andare a teatro con Marco Travaglio per una denuncia politica molto forte contro la corruzione. Questo è stato un rischio, come dire, calcolato, ma di impegno civile. Sì, diciamo anni fa, adesso non mi ricordo quando è successo, ma forse 4 anni fa e anche 3 anni fa, insomma, sì, sono stata a teatro con questo lavoro con Travaglio, che sicuramente non ha fatto felici i miei agenti, ma è stato interessante anche incontrare, insomma, quel tipo di platea. C'è sempre un ritorno per me sulla curiosità, cioè, ecco, essere poi curiosa di andare anche in mondi che effettivamente non sono miei, perché proprio non c'entro niente con il giornalista, con la politica. Dalla quale ti sei anche un po' allontanata, diciamo. Ma completamente, nel senso che poi alla fine, appunto, quello è stato anche un momento veramente di curiosità per andare in quelle platee, che è un tipo di teatro totalmente diverso da quello a cui sono abituata a fare. E poi mi sono allontanata perché forse non ci credevo più. È vero che hai smesso addirittura di votare? Ma adesso dovessi andare a votare, probabilmente non ci andrei a votare, quindi diciamo che sono in un momento, sono molto confusa, sono confusa, non sono nemmeno più arrabbiata, sono così, disarmata. Senti, la propensione al rischio significa anche investimenti economici. Tu, quando investi i tuoi soldi, sei una che rischia, che cerca un investimento che renda molto e subito, o punti al mattone come facevano le nonne e come facciamo ancora molti di noi? Ho puntato come la nonna, quindi non è stato vantaggioso adesso pensare a quello, quindi vedi, poi a volte insomma non so se è stata proprio una scelta, sì, però non mi prendo invece quei rischi, quelli delle borse, quelli immediati, quelli possibilmente, insomma, diciamo immediati, no, quello... No, ma io ho abbastanza i piedi per terra, insomma, poi avendo 3 figli, non fai, come dire, investimenti azzardati. Sicuramente un investimento che porta dei frutti è quello, lo diciamo a quanti non l'abbiano ancora mai provato, è quello nell'analisi. Talvolta un po' costoso nell'analisi, però funziona forse. Secondo me l'analisi, ci sono momenti nella vita dove sarebbe veramente importante andarci, è chiaramente un investimento a cui non riesco a rinunciare, un investimento che consiglio, diciamo, alle persone che possono essere più indecise, una birra in meno, ma insomma... Forse anche una pizza in meno, perché l'analisi è abbastanza costosa, diciamo. Sì.